tiriamo l'acqua pure oggi, ragazzi. Buonasera, bentrovati a OGM, oltranzisti gastricamente maleducati. Saluto subito i nostri compagni di merende dicendo loro che i Maya ci hanno fregato ancora una volta, vero Simone? E niente, una grossa delusione, ancora una volta grossa delusione, e noi stupidi che gli avevamo dato ulteriormente credito. È una cosa proprio... Ma secondo me hanno sbagliato qualche calcolo di nuovo. Secondo me non era... se sentite rumori di sgorghi dal cesso, no, sono i Maya. E perché tira a forza di tirare al cesso, poi si è ingorgato. È Nibiru, quindi. È Nibiru che crea detto. Sì. Ecco, niente. È Mercedes che sta cercando pizza. Ma credito nel senso che gli avete dato solo. Caduto? Caduto, è morto. Che ha detto. Beh, ero curioso di sentire quello che mi stava dicendo. Credo che i Maya sono arrivati da lobby frontali, ma non da noi. Il gioco è quello, praticamente. Dire buttare il sasso, ma poi sparire. Infatti, ragazzi. Non è senso, avete detto non bisogna dare credito ai Maya. Ma perché gli avete dato dei soldi? Non capito. Beh, io non c'ho una lira, io non gli ho dato un soldo. Mamma mia, che Gusella qua, eh. Davvero? Sarà che stai tornando da dove? Da dove? Ridete, dici, ridete, Francesco? Vedete, ragazzi, che c'era. Dalle felicissime Marche. Dalle Marche. Al momento aggiornamento, sono appena partito da Modena, ragazzi, ed è il treno del puntualismo, anzi addirittura in anticipo. Le Marche che tu mi insegni, Francesco, sono la regione del sud che sta diventando prima in classifica, ce l'ha detto giusto oggi Nostra Signora delle Zucchine di Mare, non so se avete sentito. Ha detto no, io non dico più niente oramai. Che sì, tu ormai sei attaccato alle serie TV come non ci fosse un domani o un dopodomani. C'è il videoproiettore che mi fa compagnia a me. Esatto, sì, io vi immagino abbracciati l'uno all'altro. Infatti, sì, quanto sei caldo. Beh. Praticamente io e Michela dalle 7:30 del pomeriggio tiriamo giù il telo, attacchiamo il videoproiettore, se mettiamo online un tipo 6-7 puntate a botta, un passo al domani proprio. Mamma mia, io dopo 2, massimo 3 di qualunque cosa, anche in configurazione cinema, mi addormento lo stesso, è più forte di me. Devo provare in piedi, non so veramente come fate. Noi eravamo abbastanza, cioè era proprio un ritmo tipico nostro. Poi negli anni eravamo un po' infiacchiti, una, due puntate al massimo, roba del genere. Devo dire... Ecco, perché specifichiamo, parliamo di puntate, non di sesso, quindi. Esatto. Una, due, già era troppo, insomma. Mo due, che è tutta sta cosa. Due il giorno dopo. Sto prendendo a cazzotti l'asta del microfono, chiedo scusa. No, invece questa qua c'è dovuto. Farci di due, poi se una proprio intensa, allora date. Ma perché una te la magni, più che altro? Insomma. Esatto, il meccanismo è quello: sempre due, perché così una te la magni. E vabbè, niente, comunque io volevo dire così, faccio un annuncio che io per meno un mese e fatta eccezione che il ritorno cioè il fatto che l'avvento di Francesco qui da noi per qualche giorno, e quindi faremo magari qualche speciale tipo un runtime de notte. Aspetta, ci dici quando, scusa, agli ultimi, dici quando è che ci sarà questo avvento, questo evento? Non si può dire perché poi dopo, se no poi le fan, capito, arrivano tutti insieme dopo, niente, anche... Ma mi voglio vestire fuori, da gruppi anch'io, fuori, visto che l'ultima volta l'ho mancato. Fuori, sono arrivati già le fan qui davanti. Fuori, via, non c'è nessuno. È futuro. Anteriore o prossimo? No, futuro presto, futuro tra poco, insomma. No, tra poco, oggi, dopo. E quindi faremo, che ne so, uno speciale di OGM, poi uno speciale di Runtime di Notte. Però io mo vado in vacanza, raga, perché questo è stato un anno. Perché le serie sono troppe? È stato proprio un anno intenso. L'altra sera mi sono dimenticato addirittura di fare Runtime di Notte. Significa che il mio cervello mi sta dicendo stop, cioè fermati più un mese e mezzo, insomma. Ma che credo che comunque è quello che in qualche modo succederà al nostro palinsesto. Ora non c'è ancora niente di ufficiale, però immagino, insomma, che i programmi quelli invernali lasceranno posto a quelli estivi, la famosissima programmazione estiva di Runtime. Famigerata proprio. Esatto, che insomma praticamente diventa tutto può succedere. non ci sono, esatto, non ci sono regole. Capita, esatto, esattamente alla come capita, insomma. Quindi vabbè, io lo dico così, lo annuncio io, insomma, già dalla settimana prossima, fatta eccezione appunto la settimana, insomma, No, settimana prossima è modo di dire, fuori, non cominciare a bivaccare, no, qui io, davanti. Io, no, io, tu lui poi... settimana via, fuori. Esatto. Abbiamo queste fan che sono quelle guerrite. Basta, esatto. Anche di queste fan non ce l'abbiamo più. È stato un anno troppo intenso, troppo pieno di emozioni, troppo condensato. Breaking news, pensavo che il treno si fermasse a Rubiera, invece è tirato dritto, quindi va dritto dove deve arrivare. Con un pene gigante sul Ma piano. Ci sono le run a Rubiera? Me lo sono sempre chiesto, Francesco. Su domanda, satellite. Ma l'avete pagato il satellite? Per me è solo una stazione in più che rompe le palle ogni tanto. Quindi non ci sono le rane? Non lo sa. Va bene. Non può né smentire né confermare. È giustamente, ragazzi. La notizia è importante. E vabbè, comunque, insomma, quindi Simone, fammi capire, questo è l'estate del calcio, che diciamo qualcosa che penso non si sia mai vista né vissuta sotto questi, diciamo, in questi termini, cioè c'è praticamente una partita di calcio quasi tutti i giorni della settimana, sembrano partite di calcio della parrocchia, non so se avete avuto modo di vederne qualcuna, ma saranno un po' il clima troppo torrido, saranno gli stadi vuoti, sarà la preparazione atletica non proprio ottimale, ma a me veramente pare di vedere delle categorie minori anche quando giocano le più grandi squadre d'Italia. Mi sbaglierò io, però insomma, era proprio il caso di continuare in questo modo, secondo voi? Beh, diciamo che forse secondo me le porte chiuse più la preparazione fisica sicuramente influiscono molto sull'impressione, ma devo dire che anche per 20 minuti, 25 minuti, anche belle partite, diciamo. Poi dopo diventa un po' tutto un po' più drammatico, diciamo. E infatti hanno messo la regola dei 3 slot di sostituzione per massimo 5 sostituzioni, quindi alla fine no, aspetta, che vuol dire 3 slot per 5 sostituzioni? Cioè o 3 o 5, non ho capito. C'hai l'opportunità, cioè, se fai la bizzona di Canà, sì. Ok, prima erano 3 sostituzioni, adesso sì. 3 sostituzioni diventano 3 slot, cioè nei quali puoi sostituire fino a 2 persone. Ah, ok, ho capito. A blocco, cioè tu non è che puoi sostituire 5 volte, capito? Puoi fare 5 sostituzioni, non le puoi fare. Tu devi fare 5 sostituzioni all'interno dei 3 slot. Ok. Chiaro, no? Se no non si giocherebbe mai. Ma gli slot sono a cadenza fissa o li chiami tu? No, è come quando tu chiami il time out. No, è come tu facevi la sostituzione prima. Ok, però ne puoi cambiare 2 alla volta. Quella sostituzione ne puoi sostituire 2. Ho capito, quindi per un totale di 6. Uno domani. Ho capito. Sostituzione, primo slot 2 sostituzioni, secondo slot 2 sostituzioni, terzo slot 1 sostituzione. Ok, adesso è tutto chiaro. Non avevo seguito questo particolare, sapevo che avevano aumentato il numero delle sostituzioni, ma non avevo capito che era fatto a slot. Ok. Vabbè, io guardando le partite devo dire che in questa condizione era il minimo che potessero fare. Penso che secondo me le squadre sarebbero finite proprio con metà personale a disposizione dopo le 4 partite. Secondo me era anche la cosa più giusta. Devi farli giocare, devi spremerli come delle mucche. Diciamo che con quello che i calciatori guadagnano, un po' di fatica in più, diciamo, non la possono neanche polemizzare. Il calcio deve continuare, vaffanculo, costi quel che costi, e muoiano. Non glielo voglio assolutamente augurare. Assolutamente. C'è tutto un numero di persone che ci lavorano. Se tu sei un professionista e lavori nell'ambito del giornalismo sportivo, che fai? Non lavori anche nell'ambito delle vendite bibite, come faceva Bongigino? No, quelle non lavorano. Ah, peccato. Lo stadio è vuoto. Che peccato. Però vorrei dire questo, per esempio, ragazzi, io capisco tutte le dinamiche che ci sono dietro, però visto e considerato che si gioca d'estate, si gioca tutti i giorni e durante certi orari, chi per motivi di lavoro, chi per altri motivi, le partite non le potrebbero neanche seguire come vorrebbero, ma a sto punto facessero tutto in serale, si giocassero tutte le partite alle 21, che almeno non c'è quel clima torrido assurdo delle 17, almeno questo. Allora, la cosa delle 17 sono d'accordo, nel senso che però per ora io l'ho vista tutte, che poi non alle 21, alle 21:45, cioè questi giocano alle 10 praticamente. Non so se invece che già che sia una certa, magari c'hanno pure la biocco, tanto di solito vanno a ballare alle 2 di notte, che gli frega, dai, quello è il meno. Secondo me è nel loro interesse giocare ad un orario in cui si respira un po' di più. Vai, oh. Sì, sì, no, no, vabbè, ma si è visto proprio che c'è proprio. Boh, magari il problema è che questi hanno ripreso a giocare dopo tanto tempo di interruzione, rifacendo una preparazione fisica molto accelerata, perché da quando gli hanno dato l'autorizzazione ad allenarsi a quando poi è iniziato il campionato, meno di due settimane, sì, estremamente breve, e più giocano praticamente ogni tre giorni. Eh sì. No, ma io sono sicuro che arriveremo a fine campionato che si gioca 5 contro 5. Io di questo sono convinto. Sarebbe bello. Comunque, 2 mesi di vacanza non l'hanno mai fatti. Cioè, sono 2 mesi di vacanza. Di norma il campionato. Allora, di norma. Sì, ma tra preparazione e tutto. Esatto. Di norma il campionato. Facciamo una cosa molto standard. Finisce inizio giugno. Esclusi quelli che vanno poi a fare le eventuali manifestazioni europee, mondiali, olimpiadi, quello che so, che poi comunque recuperano dopo, di solito hanno sì tipo un mese di vacanza, ma forse sì, anche scarso, perché poi i ritiri cominciano a metà estate. Esatto, perché a metà luglio già stanno tutti in ritiro. Questi sono stati 2 mesi fermi più maggio, perché maggio alla fine non hanno fatto preparazione, fine maggio che hanno fatto? Sì, preparazione anche di corsa poi. No, ma io lo vedo nelle partite, se stanno a far male tutti, raga, cioè stanno a far male, sì, ma sì. È inevitabile che si fanno. No, ma poi la cosa se lo possiamo definire divertente è che poi le partite si spesso e volentieri si concludono in maniera rocambolesca nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, prendi l'Inter, perché stanno tutti senza fiato, a un certo punto con due colpi di testa veramente da parrocchia l'Inter ha fatto 2 gol e ha rimontato una partita. Ma non per dire l'Inter, è successo anche a tante altre squadre, voglio dire, purtroppo la situazione è questa. È successo così alla fine, perché vedi, quelli hanno comunque nel secondo tempo gli ultimi 2 gol, soprattutto l'ultimo in particolare, era la squadra che era più in forma contro la squadra che era morta, cioè, e lì si è vista proprio la differenza tra chi magari aveva già ingranato, chi comunque era entrato meglio. Poi sai, dipende pure da come allenano le squadre, magari c'è allenatori che sono più bravi ad allenarli, no? Cioè, sì, sì, assolutamente, ma poi c'è il problema della lunghezza delle panchine, che a questo punto diventa secondo me determinante. La Juve c'ha 2 panchine, magari che ne so, l'Atalanta non ce l'ha 2 panchine, come va a finire? Ecco, che a un certo punto il fiatone chi lo tira prima? No, lì oggi, ma cioè, se durante il campionato così com'era nella sua regolarità, diciamo che se ti diceva bene, forse arrivavi alla fine del campionato che questa differenza ci poteva anche non sta, perché magari le cose ti giravano bene. In queste condizioni qua la differenza si vedrà, secondo me, fra 2 o 3 settimane la Juve ci avrà già 10 punti di vantaggio sulla seconda, e arrivederci, grazie, ma è inevitabile, insomma, purtroppo la situazione è questa, insomma, sì sì, poi, purtroppo c'è poco da fare, sei fortunata mezza panchina, quindi ciao, vediamo un po' se si arriva a fine stagione, se a un certo punto le squadre e le società cominceranno a dire vabbè, va, per noi è stato un piacere, perché insomma il magazziniere non può giocare, l'autista del bus nemmeno, quindi vedremo un po', vabbè, usciamo, fanno rientrare quelli della primavera, la Lazio ha chiamato mezza primavera, quindi che saranno spompati pure l'ora, certo, insomma, però sono ragazzini, hanno 17 anni, 20 anni, sono un po' più, capito, cioè quelli che vedono il pallone, giocano, Pippo e pallone, bravo, eh sì. Vabbè, comunque, usciamo dal mondo del calcio, scaccia figa come sempre, ma tanto di figa non c'è, ma secondo me nemmeno dei piselli, se dobbiamo essere sinceri, stasera non vedo tutto questo, come dire, fermento in chat. Chi glielo fa fare? Ma infatti siamo d'accordo. E invece volevo dire, ragazzi, ma voi avete capito? Con il tuo videoproiettore. Voi avete capito cosa è successo oggi, da cui il titolo della puntata? Non sì, che praticamente questa abile mossa del regime, no, che ho detto regime? Non volevo dire regime, no, a regime, che se no parto, eh? A regime, che se no parto, quello volevi dire? Sì, sì, no, vabbè, del governo teheraniano, come si dice? Iraniano. Ha deciso che forse bisogna mettere non una taglia, devono mettere un... Non è un'ipotesi. Io sto arresto, dai. C'è un mandato di cattura staccato da un giudice di Teheran. No, poi dopo noi commentiamo che è meglio. No. Dicevo, è stato emesso un mandato di cattura internazionale da parte di un giudice di Teheran per una serie di figure politiche e militari collegate all'uccisione di Soleimani. E tra gli altri c'è anche Trump. Esatto. Vabbè, qui siamo matti forti. Insomma. Vabbè, ma è una gara tra matti, assolutamente. Insomma, sono... non è che ci piacerebbe pure, però dai, sei matto. Te... governo di Teheran. Se sei vabbè, matto. È un governo che cerca in modo assolutamente, come dire, autarchico di far valere la propria indipendenza dal colonialista e anche la propria autonomia giudiziaria, come possiamo dire. Poi è chiaro che è un mandato che nessuno prenderà mai in considerazione, però insomma, la notizia è tra... Mi viene in mente una frase del commissario Girardi. Che ci fa con quel mandato? Te ci pulisce al culo. Culo. Esatto. Il discorso, oddio, ragazzi, è che il maresciallo Girardi era un gran poeta. In questo momento in cui, come voi sapete meglio di me, la popolarità di Trump è ai minimi termini, io pretesti per fargli fare una guerretta non gliene darei nemmeno se fossi l'Iran, insomma, ecco, non so voi come la pensate. Tu dici a parte quella che c'ho in casa? No, non lo so, guarda, cioè, francamente. Beh, ma lui gli servirebbe così distogliere. Esatto, lui ha bisogno di riacquisire, di distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni e di riacquisire, come dire, popolarità tra l'elettorato naturale. Come lo fai? Quando c'è una bella guerretta in cui tu puoi passare per il democratico che salva il mondo dall'oppressore, qualche punticino di, diciamo, di preferenza politica lo riacquisisci sempre. Secondo il problema è che ha pochissimo proprio... tempo per riuscirci. In questa fattispecie mi sa che non funzionerebbe tantissimo. C'ho come un'impressione, insomma. Però, ma tanto Trump che gli frega, lui c'ha la maggioranza silenziosa. Ma se stanno a morire tutti dei Covid, quelli che votano per lui. Sono appena sceso alla stazione ed è quella giusta. Verifico, sì, è quella giusta. Mi approssimo alla raffineria delle bici nella speranza di trovare la mia. La tua bici, che è quindi importante. Un piccolo passo per l'umanità, un grande passo per Francesco Di Muro. Un applauso. Bravo. Ma lui non è Francesco Di Muro, io non conosco San Francesco. No, hai ragione, non è, lui è un incognito, non dovevamo, lui era l'inviato, però non dovevamo fare nomi o cognomi. Ma sì, è la stanchezza. La stancanza, sì, è il caldo, ragazzi, non so voi, io sono qua. Tu sei abbracciato al videoproiettore, io sono abbracciato al condizionatore d'aria, messo al minimo possibile per non far entrare troppi rumori nel microfono, nella corrente, perché sapete, il mio setup casalingo è fatto in modo per cui nella stessa presa di corrente c'è il mondo, tra cui la 48 volts dell'amplificazione dei microfoni e anche il condizionatore d'aria, quindi se sentite dei rumori di fondo sapete che è per quello. Tipo non so, scorre, io penso fosse lo scorre, invece è il condizionatore. Beh, l'elettricità fa cose strane. Il rumore di fondo è esattamente quello che pensate. Ma a proposito di scorreggio, Trump ne ha detta un'altra, cioè una sola. Io ho visto diverse. Questa settimana, cioè non ho seguito. È il caldo, ragazzi. È il caldo. Anche lui è stanco, anche lui il cervello dice. Però ho visto, insomma, delle perle, delle grosse no, perle. No, infatti, insomma, non so se l'abbia fatto. Tipo perle Madonne. Che era praticamente era in procinto di essere firmato con un assegno? Firmare una legge che praticamente per proteggere le statue che stanno venendo abbattute in America, sì. Sai, c'è questa cosa del Black Lives Matter. No, però non lo dite a Vargion, che sennò no, assolutamente. Un'altra puntata. E ha detto praticamente che bisogna fermare questa onda di depravazione, questa onda di demolizione, per cui bisogna fermarli perché adesso appunto i manifestanti puntano a Gesù Cristo. Cioè, vogliono buttare le statue. Lui deve difendere Gesù Cristo. Gesù Cristo, George Washington e Abraham Lincoln, nonché Thomas Jefferson. Che sono la stessa cosa, per la esatto, perché no? Gesù Cristo è uno dei presidenti delle Stati Uniti. Uno dei fondatori. I fondatori, infatti, i padri fondatori. Oh. E le famose statue di Gesù Cristo che debbono essere buttate giù. Cioè, perché in America è pieno di statue di Gesù Cristo ovunque. Pieno come, sì. Non in chiesa, perché in chiesa, vabbè, poi stanno in alto, è anche difficile. No, c'hanno le statue di Gesù Cristo ovunque, insomma. Quindi, effettivamente, ma poi l'ha firmata questa legge? Guarda, non lo so soltanto che si è trovato a un certo punto a dover cancellare dai social un altro dei suoi interventi memorabili, sì, perché praticamente si è trovato esatto a dare il suo endorsement ai suprematisti bianchi, insomma, alla fine, ragazzi, che brava gente. Esatto, alla fine la Casa Bianca gli ha detto: guardi presidente, forse è il caso che lo togliamo questo tweet, perché sennò stavolta ti fanno un altro strike down che la metà basta, insomma. Quindi vabbè, la situazione è che ormai lui è completamente solo, perché anche una grossa parte del suo elettorato non può più tollerare certe. Per un altro importante aggiornamento, la bici era precisamente nel luogo in cui l'ho lasciata, mi appresto a sciogliere il lucchetto e da Vabbè, va perché bene. Noi non vediamo l'ora di sentirti bene. Sciogli il lucchetto alla bici, vattene. Sì, sì. Vabbè. Difficoltoso, molto concitato, però vabbè. Mi raccomando, Francesco, se ci ascolti, fai attenzione, fai attenzione. Devo dire che questi interventi mi hanno ricordato i tempi d'oro del Covid, quando Gualdi dal suo balcone interveniva e ci diceva questi memorabili avvenimenti eretini, insomma, con lo stesso piglio da inviato speciale. Fatto prosegue, fatto prosegue. Sì, ma non nostalgiatelo troppo. Non nostalgiatelo troppo, perché tanto sono sicuro che in autunno un altro giretto, sì, magari un po' più, come dire, circoscritto a determinate zone, però secondo me un altro giretto. Dico, andiamo in vacanza adesso, perché poi dopo c'è da lavorare dopo. Lascia stava, che poi leggo con sgomento i giornalisti con questi titoloni, che voglio dire, non capisco che cosa si aspettavano. Ovviamente lo fanno anche in maniera un po' speculativa, però comunque fa ridere il fatto che scrivano che le spiagge che sono state aperte siano piene di assembramenti. Cioè, decidiamoci, se decidi che le spiagge, soprattutto quelle libere, si possono aprire, dopo non ti meravigliare che ci siano gli assembramenti. In spiaggia non si può tenere un distanziamento come in altri luoghi, oltretutto, soprattutto in quelle libere dove nessuno vigila, dove nessuno stabilisce chi può stare dove. Eppure, sì, poi in spiaggia ai ragazzini piace pomiciare, dai, su. In realtà si potrebbe, se tutti avessero il senso civico di dire no, c'è troppa gente. Che la gente ha smesso di seguirle, perché farlo? Sì. Basta, ma perché è passato? Lo sprodo con lume, c'è stato lo sprodo con lume. È finito, sì, Dio, sì. Non c'è più. Ma che c'è? Qual è il problema? Certo, poi in Lombardia ancora ne muore qualcuno, ma cioè, è così. Io però continuo a pensare che non è giusto. Come dire, lasciare tutto, buttare tutto tutta la responsabilità nelle mani della società civile. Cioè, queste certe cose le devono gestire gli amministratori e la politica in questo l'esercito, caso. L'esercito, lo deve gestire l'esercito. Ma l'esercito, oddio, in alcune circostanze, forse, per esempio, è stato mandato a Mondragone. E per esempio, a proposito di esercito, oggi Salvini, la Iena Ridens per antonomasia, si è recata giustamente lì dove il dente duole, per andare a speculare ancora una volta con la sua presenza. Io spero che Lobby poi ci raggiunga per raccontarci in prima persona come è stato calorosamente accolto a Mondragone Salvini oggi, tant'è che insomma si è anche rischia pure. Beh, ma guarda, ovviamente la contestazione è stata talmente maggiore rispetto a quello che poteva essere il vociare dei pochi sostenitori che erano lì, che ovviamente si è trovato ad aggredire a sua volta i contestatori, dicendo che erano dei violenti, che invece di lavorare preferivano stare con la camorra, eccetera eccetera. Berlusconi sta storia. Sì, vabbè, però considerando che lui si sa che Salvini un selfie non lo nega a nessuno, tant'è che c'ha dei selfie veramente con la crema della delinquenza italiana, arriva in una terra di stereotipo, nella terra dove tante persone oneste combattono contro la camorra, e cosa si permette di dire? Che quelli che lo contestano preferiscono stare con la camorra. E bello mio, la storia e la cronaca ci riempiono di esempi in cui, forse anche involontariamente, perché qua non è che vogliamo accusare per forza Salvini di essere, come dire, vicino a determinati ambienti, no, non lo accusiamo, però ricordiamoci che determinati selfie, anche nella sua ignoranza, se li ha fatti lui con certi personaggi. Quindi, insomma, io a casa mia i selfie li faccio con chi voglio. Non sono libero di farlo con un camorrista e senza mascherina. Ah no? Vabbè, comunque, che vi devo dire, ragazzi? Il mondo ormai veramente è un agglomerato di ipocrisia. Il mondo, non saprei come altro descriverlo. Io sono, scusate, tutto a posto. Un momento del sonno. Che questa notte ho fatto le tre davanti a Divinity Original Sin, quindi. Che bello. Bello, veramente bello, invece. Me lo ricordavo che mi era piaciuto, Ma se adesso noi dicessimo a Gualdi, se noi dicessimo a Pizzi che può collegare anche il computer al videoproiettore, che succederebbe? Sì, certo. No, ma lui lo sa già, solo che lo so, che lo sa. Portare la tastiera dall'altra esatto, parte. Esatto, il problema l'avrebbe già fatto. Dovrei avere una tastiera Bluetooth. Che tra l'altro ce l'avrei anche. Wi-Fi, insomma, in generale, con il sensorino. No, lei la vuole Bluetooth. La vuole chi? La vuole Bluetooth? il videoproiettore. Perché no, te fai il videoproiettore? No, ma il blocco che c'entra, Simone? La tastiera, PC, la tastiera deve rimanere collegata al PC. Mica diventa un la periferica di controllo il videoproiettore. Puoi attaccare una tastiera Bluetooth al videoproiettore per utilizzare l'interfaccia di Android TV, non per giocarci. Oh, che mi sai di che sono scemo? No, però c'è sonno, lo sento, e quindi ti spiego. No, ma adesso il whiskietto mi sta a far riprendere un pochetto. Questo è il contrario. No, comunque, sì, lo so che se infatti già con Michela ci siamo organizzati alcuni film interattivi, sai, quelle cose che ci piacciono fare noi, che non ci vuole tutto questo impegno dal punto di vista del gameplay, no? Perché sennò lei poi li fa morire tutti, quindi... E niente, ci stiamo organizzando. Muorili tutti, moriscili. Nuovo gioco di Michela De Paola. Vabbè, ragazzi. C'è anche l'ultimo, tornando un attimo velocemente al calcio, perché ce la siamo dimenticata la figura di merda. Per un importante aggiornamento di nuovo, c'è un camion della lentezza urbana, anzi due camion della lentezza urbana che mi intracciano la strada, io cerco di equilibrarli in modo molto agile, ci sono riuscito, quindi sono un complotto, attenzione, non rischiare la vita per niente. Attenzione. Francesco, devi sapere che c'è questo strano fenomeno fisico per cui quando tu vai ad una certa velocità in bicicletta il vento entra nel microfono. E comunque è un complotto del camion della nettezza urbana, assolutamente, anche, sì, ovviamente anche simbolico, capisci, se tu ci pensi, insomma. La lobby degli spazzini, ragazzi. Comunque stavo parlando di quella bella figura del merda che ha fatto il Leeds, praticamente l'Inps? Sì, l'Inps in continuazione, il Leeds, vabbè, ha fatto come ha fatto il Napoli, no? Quello, alludi a quello, cioè poi non il Leeds o il Napoli, le tifoserie hanno fatto No, vabbè, che hanno messo il cartonato di Bellato. Ah, no, ok, no, scusa, grandi. C'erano, perché bisogna mettere i cartonati, no? Quindi se sono sbagliati ci hanno messo quello del Billare, perché bisogna metterci tutte le etnie, però vabbè. Vabbè, se sono sbagliati, qualcuno ha fatto il burlone, perché il cartonato di Bin Laden non è cicciato fuori dal nulla da solo. Vabbè, qualcuno l'ha fatto, effettivamente. Appunto. Quindi, beh, diciamo che allora, se per questo nel campionato inglese c'è stato recentemente anche questo episodio dove il Manchester City è andato a giocare in casa del Israel, che non sappiamo bene. No, più che altro funzionava rallentato, non dovrebbe entrare il vento nei microfoni. È successo che praticamente non si sente. Dicevano, cioè, hanno chiesto a quelli che hanno comprato il biglietto di mandare una foto per metterlo negli spalti. Ah, ok, credo che Lobby ci stesse spiegando che alcune delle persone che avevano il biglietto per partecipare alla partita da spettatore hanno avuto la possibilità di mandare la propria immagine e loro l'avrebbero stampata e messa sui cartonati al loro posto. Probabilmente qualcuno ha fatto il simpaticone e gli ha mandato. Beh, sono genio. Beh, sì, se è così è una genialata. Poi, insomma, che ci sia qualcuno che non riconosce Bin Laden nel 2020, andiamo bene, insomma. No, vabbè, ma magari quelli. Ammesso che sia mai esistito, ovviamente. Esatto. Che questo lo dice lei. No, stavo dicendo che invece in un'altra partita del Manchester City, che era andata a casa di una squadra che adesso non sappiamo bene, che però insomma ha una tifoseria notoriamente, insomma, d'estrema destra. La San Benedettese, ne diciamo una così, a caso. No, tipo lo Swashbuckles Blonde Town. Che a un certo punto questi qua, durante la partita, hanno fatto passare un aereo con la scritta White Life Matter. Sì, sì. Che insomma, vabbè, cioè, la cosa ha fatto scatenare praticamente l'ira di Dio. Sì, pare che abbiano interdetto il pilota dell'aereo all'accesso allo stadio a vita, insomma, cose del genere. Sì, no, ma non solo, in realtà pare che sì, cercheranno di andare a fondo per capire chi è che ha organizzato sta cosa, perché non gli vogliono più dentro lo stadio, che è un po' una sorta di ipocrisia, perché anche lì, voglio dire, nel senso, alla fine questi sono i tifosi che ci avete, cioè nel senso, se so quelli, lo sapevate già prima, insomma, quindi. Però vabbè, sì, in effetti capisco che a volte le società possono essere un po' in quella via di mezzo tra oddio che faccio, purtroppo è così e non posso fare nient'altro. Vabbè, nel frattempo comunque... volevo spiegare a Rizzard che in chat diceva Lobby buttalo sto cellulare, mannaggia. In realtà Breaking News mi sta mettendo sotto una macchina a marcia. E niente, non la finisce una frase. Dicevo, Rizzard pensa che il nostro Lobby è in bicicletta in questo momento, quindi questo spiega tutte le difficoltà del caso, ecco. Poi al secondo tentativo la macchina l'ha messo sotto, probabilmente, perché dispiace. Infatti ho detto stai attento, cioè, purtroppo. Vabbè, speriamo che qualcuno ci dica qualcosa, se è ancora vivo, se sta bene. Ci dicano qualcosa, ci dicano. Non ci dicano, in questo momento non ci stanno dicando. Tra l'altro, non per fare paragoni e paralleli, diciamo infausti, però mi è venuto in mente, vista la regione, vista il mezzo di trasporto, eccetera. Oggi hanno operato nuovamente Alex Zanardi, secondo intervento chirurgico di tipo neurochirurgico. Facciamogli ancora una volta, insomma, tutti gli in bocca al lupo del caso, perché Zanardi è un personaggio positivo e io racconto questa cosa perché mi rimase tanto. Non so minimamente chi sia, tra l'altro. Alex Zanardi. So che era tipo un pilota. Non so. Allora, Zanardi era un pilota di Formula 1, diciamo bravo, ma non aveva lasciato il segno da un punto di vista dei risultati. Però insomma aveva corso anche per scuderie importanti, anche in BMW e Toyota. Poi dopo la carriera di Formula 1 si dedicò alla Formula Indy. In un incidente su una pista ovale, praticamente in uno scontro con un'altra macchina, gli hanno tranciato completamente di netto le gambe. E lui ha avuto questa forza enorme di ricrearsi un'attività sportiva, soprattutto di non uscire di testa, che per un atleta professionista vedersi privato delle gambe potrebbe essere un dramma insuperabile. Ma penso che per chiunque. Ma sì, ma in particolar modo. E io quello che racconto ogni tanto, perché mi è capitato di vederlo, pochi anni dopo il suo incidente, quando era prima di intraprendere la carriera da paratleta, quindi di correre in handbike eccetera, lo vidi ad un motor show a Bologna, dove ero andato con dei colleghi una giornata, e quello che mi fece un'impressione, ho ancora le foto in archivio, è come lui sorridesse. Era una persona di un ottimismo, di una solarità, in questo caso fatemelo dire, anche se mi fa ridere il termine solare, era anche una persona di una positività impressionante, malgrado quello che gli era successo pochi anni prima, perché quando io l'ho visto credo fossero passati un paio d'anni dall'incidente, non di più. Comunque sì, insomma, com'è la situazione dal punto di vista, perché ero rimasto fino all'altra qualche giorno fa che era ancora riservata lui è tuttora in prognosi riservata, è tuttora in coma farmacologico. Il problema è, ovviamente, i medici più di tanto non dicono pubblicamente. Anche io agli auguri per grande Zanardi. Comunque voglio informare che sto per battere finalmente il portone di casa. Quindi sono sopravvissuto, grande, con la bici nel sottosuolo, e a momenti dovrei niente, questo è niente, però cade comunque, arriva lì dentro, purtroppo non ha retto, non ce la fa. Bene, adesso tornerà. Dicevamo sulla questione dello stato di salute di Zanardi, che molte cose ovviamente i medici non le dicono pubblicamente. Quello che però è stato spiegato i primi giorni è che lui ha avuto un bruttissimo trauma facciale, e il problema è questo: pare che ci fosse a rischio la vista, perlomeno da un occhio, e che i danni al volto possano essere ingenti. Non sappiamo più di questo, ecco. Però insomma, se dopo le gambe perdesse anche la vista, sarebbe veramente un accanirsi del destino che io proprio non mi saprei spiegare, veramente troppo. Beh, l'incidente è stato, da quello che ho capito, è stato brutto, quindi cioè, già, praticamente insomma, ha preso un camion in faccia. È una sorta di compromesso con la vita, cioè preferisci essere comunque vivo piuttosto che, oppure mannaggia la miseria. Non lo so, è sempre un po' particolare, è uno che già ci ha rimesso, insomma, quindi sai, però non lo so, io non riesco a immedesimarmi. Chiaramente non mi augurerei mai un incidente di quel tipo. Una volta, qualche giorno fa, cercavo di dire: ma se io dovessi scegliere di scegliere, far ridere, però avendo un incidente, un trauma di quel livello, e potendo scegliere, a cosa rinunceresti meno, diciamo, più facilmente, se così si può dire, agli arti superiori o agli arti inferiori? E lì mi sono detto: beh, senza le braccia sei fuori dal mondo, senza le gambe oggi come oggi puoi ancora, grazie alle nuove protesi e altre cose, puoi fare una vita pressoché piena e quasi normale. Quindi tra perdere le braccia e perdere le gambe, forse direi vabbè, se proprio sono costretto a scegliere, meglio le gambe. però se poi devi perdere anche altro, per esempio la vista, diventa, comincia a essere veramente troppo, tipo veramente. Pisello, se devi perdere il pisello, e capirai quello ormai, che c'è già quello, insomma. SSPP, diceva qualcuno, no? È presente? No, serve solo per pisciare. Breaking news, Zellig. Sono appena entrato in casa e sono niente, è vero. No, no. Ragazzi, vi giuro che non è una finta, non... Sei tornato? Niente, Francesco è andato, cioè è in casa, ma era meglio se stava in bicicletta a questo punto, cioè. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, poi tornerà, insomma, mi auguro che si aggancia alla rete di casa e utilizzi gli strumenti più appropriati che la scienza moderna gli mette a disposizione, vero? Comunque, guardi, insomma, sono successe varie cose in questi giorni, no? Diciamo, è stata una settimana abbastanza pienotta, no? Sì, ma io già non me le ricordo, che cosa sarà mai successo? Boh, devo dire... L'entusiasmo, troppo. Devo dire che in realtà... Secondo me sbano tu in questo momento. No, io... Dovresti salire in cattedra e fare dire proprio... quello che scandisce le notizie, così esatto. Almeno poi Gualdi se le ricorda, se no. Quello che scansiona, no, vabbè, le notizie, ma in realtà il grosso l'abbiamo detto del metodo di de Donno. Esatto, il metodo di Donno, esatto, io anche lì volevo arriva questo bello, misteriosissimo bello. Biologo di Atlanta che su Facebook loda in broda il metodo di de Donno, che è questo medico presunto, ci vorrebbe il nostro consulente medico scientifico Carmine Puccio Consol, ma oggi non è dei nostri per impegni familiari, a spiegarci allora tutta la questione del metodo di Donno. Gualdi, puoi fare da surrogato? Allora, innanzitutto c'è questo Joseph Dominus, yeah, postava sotto i post di, appunto, di The Don, in Italia pochi spregiudicati non perdono occasioni per diffamare medico oramai noto in tutti i mondi. Il PT di Codaroni prosegue nelle sue opere denigratorie attraverso una sua iscritta, nonché candidata del sindaco PD di Codaroni, e attacca il doc, come lo chiamano affettuosamente i suoi, il doc. Scusa, posso farti una domanda, Gualdi? Considerando che l'ha scritto in un italiano impeccabile, perché l'ha letto alla Staglioglio? Beh, perché io immagino che lui fosse così mentre lo questo scrive. Joseph Dominus, nome latino, te lo sei immaginato americano? Sì, ma assumevo, ragazzi. Vabbè, perché è un biologo Joseph di Atlanta, Dominus, giustamente. Scriverà perfettamente italiano, ma parla con questo accento, come il giornalista, come si chiama quel che parli come Staglioglio, proprio lui, come si chiama? Alan Friedman. Friedman, esatto. Quindi immagino che parlasse allo stesso modo, quindi mentre scriveva parlasse così. Ok. E poi niente, a un certo punto è venuto fuori che sto Dominus in realtà non era che un racconto, un account fasullo di The Donno, cioè praticamente si era fatto un account fasullo e da solo, quindi col suo account si sbrodava e si elogiava, diceva: oh, ma quanto sei bravo, caro dottore, caro doc, che sei proprio bravo, ma sei bravo, mamma mia, quanto proprio, ma perché ti vogliono diffamare, sei così bravo e onesto. Ma sapete com'è stato sgamato? Perché la parte divertente è questa. Perché si è postato tipo da solo, ha fatto la puttana. Allora, intanto, se leggiamo le descrizioni di questo profilo Joseph Dominus, hai fatto male a leggerlo in inglese, Gualdi, perché lui si è praticamente messo nella biografia di aver frequentato il liceo classico Alessandro Manzoni di Milano. Quindi evidentemente si è laureato ad Harvard dopo, ma è un cittadino italiano in America. Poi, per darci questo tocco di modernità, lo hanno inserito in biografia in un'unione civile. Tutta la Bellucci parla con l'accento francese, questo potrà parlare con l'accento inglese. Mi devi dare un bacio come lo avessi a lei, famosa frase di... Comunque, questo Dominus cosa ha fatto? Ha collegato anche il suo account Facebook a Facebook Messenger e c'era il pulsantino per fargli la telefonata. E qualcuno, non vorrei sbagliare, probabilmente Servaggio Lucarelli, ha pensato bene di chiamarlo. E lì c'è stata quasi la scena della telefonata. No. Fantozzi, e lei? Perché più o meno così. Sì, però lui si è giustificato perché ha detto: ah, cari ragazzi, ma io vi stavo a prendere per il culo perché volevo vedere chi di voi rema contro di me, volevo vedere chi sta contro di me, era fatto tutto apposta, capito? Era tutto pensato, machiavellico, sto proprio 10 passi avanti, ma che ve lo dico a fare, voi ci credete? No, ma ragazzi, la cosa divertente è questa, che praticamente Lucarelli chiama il numero, fa la chiamata Facebook a questo presunto Joseph Dominus. Dall'altra parte risponde una voce familiare, dice: sì, ma parlo col professor De Donno? E lui risponde: sì, sono io. E la conversazione va avanti per 4-5 battute e a un certo punto Lucarelli chiede quindi a questo punto a De Donno, dice: ma chi è questo Joseph Dominus? E lui risponde: glielo dico in confidenza perché non so neanche se a lui faccia piacere, è un personaggio molto importante nel mondo scientifico, bla bla bla. Al che la Lucarelli dice: scusi, però una domanda, perché questo ricercatore importante è registrato su Facebook con questo numero di telefono a cui ha chiamato e risponde lei? Panico, perché questo numero fa ponte con gli Stati Uniti. La cosa di un... siamo negli anni 70, sta. Di un creativo, beh, fa contatto col gomito. Col gomito, il ginocchio, è sempre il ginocchio, okay. Ragazzi, che fa... non vi pot... il telefono ponte non lo sentivo negli anni 70, una cosa. Esatto, esatto, ragazzi, ma neanche la camionetta della Polpost. Vabbè, comunque, insomma. E niente, Lobby Frontali non è mai tornato. Quindi, come dire, ad memoria, ma di Lobby Frontali. È spaventante, però, perché cioè, che cosa è successo? Cioè, era stato tanto bene. Era il dire sono dentro casa, che è lì, perché voi lo sapete che più della metà degli incidenti mortali che accadono alle persone avvengono in casa. Quindi, probabilmente cioè, è stato assalito dicono, dal fantasma. Bello, sono a casa, sono al sicuro, manco per cazzo. Insomma, diciamo. Ragazzi, è stato assalito dal fantasma delle derrate alimentari scadute lasciate dalla sua ex coinquilina, secondo me. No, ma lì hanno già bonificato tutto. Dici, cioè, rimane sempre qualcosa e non te ne accorgi. Magari in un intercapedine. Assicuro che Francesco in questo momento c'ha problemi ben peggiori. Comunque, vabbè, facciamoci i cazzi nostri. Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. E vabbè, parliamo di cosa? Parliamo, non lo so, parliamo anche un po' di visto che tiriamo in ballo questi videoproiettori un po' da inizio puntata, stanno uscendo un po' di serie carine in queste settimane o siamo rimasti al pre-Covid, ecco? Vabbè, tu stai guardando Mindhunter, che in realtà è di un paio d'anni fa, però è una serie notevolissima. C'è la stagione nuova, c'è la stagione nuova. La stagione nuova di quest'anno. Io so che c'è, esatto, la terza di Dark. News, ragazzi, sono collegati in modo decente. Buonasera. Oh, guarda, eravamo preoccupati a un certo punto. Ti avevamo dato per morto, disperso. Sono stato risucchiato nel sottosopra e poi nel sotto sono riuscito a tornare indietro, però per riuscire a tornare indietro ho dovuto fare un'inversione a U con a bici, quindi. Il naso per calzo, no? Oh, che bello, ragazzi, intanto vi dico, se vi può interessare, che finalmente per gli amanti del genere in italiano è uscito il doppiaggio di Ghost in the Shell Standalone Complex 2045. Oh, meno male, va, finalmente. Non vedevamo l'ora. No, io sì, invece, perché sennò non me lo sarei visto in Giappone. Io sono uno di quelli che guarda i manga in giapponese, piuttosto non lo guardo, ma se c'è solo il giapponese non lo guardo. E tu hai detto, ah, è bello, ma sottotitoli in cuore. A me i cartoni animati giapponesi mi fanno cagare. Allora, Simone, posso dire una cosa? In realtà non è che vanno visti in lingua originale perché sono più belli o che altro, è che succede che spesso e volentieri, soprattutto per una questione di fondo di tipo economica, i doppiaggi in italiano delle serie giapponesi, e in particolar modo quelle poco importanti, sono fatti coi piedi, quindi spesso e volentieri i dialoghi sono tradotti male e completamente travisati. Ho visto anche quella inglese piuttosto che quella già c'è, capito che voglio dire? Ma in realtà, cioè, il concetto è leggere il sottotitolo, di non sentire le voci giapponesi che mi fanno, diciamo, scivolare la cacca dal culo, diciamo così. Diciamolo con una metafora, sì. No, perché hanno rotto il caso. Ah, oh, boh, giapponese. A me i giapponesi, con sta roba giapponese, che ma hanno rotto il cazzo. Oh, vabbè, ma quello è il loro modo di parlare, insomma, non gliene farei una colpa. Se lo senti che fanno meglio, insomma. Scusate. Va bene, tra l'altro mi domandavo invece che fine avesse fatto il tanto agognato ridoppiaggio di Evangelion su Netflix, che era stato annunciato poco dopo la cancellazione di quello di Gualtiero Cannarsi, dicendo no, adesso riandiamo subito in storia in doppiaggio, adesso lo rifacciamo. Sì, va a finire. Quando morto. Il prossimo anno tu non te lo ridomanderai più, ci ributteranno mezzo quello che no c'è. Ma in realtà no, perché è stato intervistato all'epoca anche d'accordo. No, dicevo, volevo dire questo, che l'anno scorso, qualche mese fa, è stato intervistato sul tema un altro delle persone che hanno lavorato direttamente ai doppiaggi di Evangelion, che è Fabrizio Mazzotta, ecco, mi è venuto adesso finalmente. E lui aveva... dopo cannarsi, questo si chiamava bucarsi, tipo. No, Fabrizio Mazzotta, che per la cronaca è uno che è stato direttore di tantissimi doppiaggi di cartoni animati, e per farvi capire chi è, così capirete tutto, è la voce di Quattr'occhi dei Puffi. Mamma mia, okay. Lo scrivi all'inizio del suo curriculum? Okay. Vabbè, tanto è... E poi la voce di Brandon nel Belle Bellezze, ricordiamocelo anche, è importante. No, Brandon di Beverly Hills è coso, vabbè, ve lo dico dopo. Profilax, sì, vabbè, cioè... sì, anche. Vabbè. No, ce l'ho a culo, tavagno è meglio. Ma... sì, esatto. Teniamo, quindi è Marco Guadagno il doppiatore di Jason Priestley, ecco, mi è venuto nel frattempo. No, dicevo che comunque Fabrizio Mazzotta ha confermato che il cast del doppiaggio di Evangelion era tornato in studio a ridoppiare, quindi il lavoro è iniziato. Poi che sia andato perso causa Covid, questo non lo so. È chiaro che non è una priorità per Netflix, magari lo stanno facendo nei ritagli di tempo i doppiatori, che ti devo dire, però sarebbe carino sapere, insomma, di che morte dovremo morire. Vabbè, detto questo, ma guarda, sempre per esprimere delle considerazioni democratiche ad aperte alle altrui culture, a me se Evangelion stesso finisse nella spazzatura, bruciato nell'infinito vuoto dell'universo, non succederebbe niente, insomma. Eppure ti assicuro che ha cambiato la storia dell'animazione giapponese, la storia della fantascienza. Beh, è una pietra miliare, c'è poco da fare. Io l'ho visto Evangelion, ho provato a vederlo due volte e per due volte sono arrivato a metà quando mi sono ritrovato i coglioni rimbalzanti per terra a sentire la storia di questo qua, che un bambino frocio con dei grossi problemi, che non riesce a interagire. Il problema che non è che è frocio, però, perché c'è grossi problemi, però deve salvare l'umanità con... e che non gliela frega niente. Basta con queste cose, sono tutti uguali queste storie, tutte uguali, dai, tutti uguali. Il ragazzino dentro al robottone, basta. C'è la basiscenza. No, mi piace, voglio che vai avanti perché è divertente. Tra l'altro vorrei anche io un cicchetto di whisky in questo momento, ecco, vi dico, bravo, la verità. Bravo, quello aiuta tantissimo. Cioè, sì, la metà delle cose le penso. Fa sudare un pochino adesso. L'altra metà le dico. E l'altra metà le percepisco dentro di me, insomma. Francesco, ci sei? Sì. Sì, ma sto mangiando delle noci. Bravo, delle noci? Sono. Proprio di stagione, vero? Stagionissima. Vabbè, l'importante è togliersi il langurino, come si dice. Ma che so, le stagioni delle noci. Delle noci. Beh, io le associo sempre a Natale come tipo di... autunno, sì, i mesi invernali. Però comunque, essendo frutta secca, in teoria si conserva. Anche certo. Se queste qua non so da dove provengono, sicuramente non dall'Italia. Non facciamo... provengono da sotto il divano. Quindi vedi che ci ricolleghiamo a quello che dicevo io prima? Non ho capito? No, tu non c'eri in audio prima, dico, però questo concetto delle noci che arrivano probabilmente da sotto al divano si ricollega con quell'ipotesi che ho fatto io prima, di derrate alimentari deperite nascoste da ex coinquiline che sono state ritrovate come reperti tossici. No, credo che nel giro di un annetto siamo riusciti a bonificare tutto, ma davvero abbiamo trovato suoi residui, per fortuna non alimentari, ma tipo nel giro di 6-7 mesi trovavamo ancora residui della sua permanenza qui, quindi ogni volta era una rievocazione del trauma e altri... Ma ostentavate la sindone, cosa facevate? Terapeuta. Va bene ragazzi, comunque, Francesco, tu hai preparato un argomento a piacere per l'esame di stasera? Te lo prendo, cioè passate un'altra notizia che va a recupero adesso, ragazzi, fatemi un attimo rinfocillare, ci sono, però vai con una notizia tu e poi te la recupero dalla chat. Perché la notizia è che non ci sono notizie. Sì, basta, abbiamo già detto tutto. Te l'aspettavi questo colpo di scena? A parte il fatto di Mondragone, che mi ha detto prima di dire anche sì, la mia, esatto, assolutamente. Non solo, la cosa che mi ha sorpreso è che ha partecipato anche gente di Forza Italia alla contestazione, e tipo a lui che vabbè ha dovuto abbandonare rocambolescamente il palco e gli hanno buttato dell'acqua addosso, e lui ha risposto: ah, grazie per l'acqua, aveva anche caldo. Che sta cosa mi ha ammostriato particolarmente, perché una cosa che mi è successa a me circa 2 settimane fa, identica, cioè mi hanno buttato buttato dell'acqua addosso. E io, ironizzando, non cedendo, ho detto: ah, grazie, mi buttato, faceva caldo, grazie dell'acqua. Questa analogia tra me e Salvini mi inquieta alquanto. Fa sgomento. Tra l'altro, ricordiamoci che Salvini era a Mondragone per fare il tour dei caseifici per le ciliegine di mozzarella. Lui stava lì per quello. Assolutamente. Le ciliegine di mozzarella. Lui avrebbe aspirato più a una bella sezione di battipaglia. Ho capito. La concedono. Ah, la notizia ce l'ho che. Un pochino una rievocazione, non lo so, forse stanno facendo un... si porta di moda ogni tot anni, è che nel Mar Baltico, praticamente un centro di Copenaghen, praticamente, no, dico Copenaghen, no vabbè, un centro comunque, io non ricordo di quale paese, di Stoccolma, ha individuato che ci sono nel Mar Baltico un aumento di particelle nucleari non preoccupantissime, però comunque molto più. L'ultima volta che la Svezia ha rilevato delle radiazioni atipiche era Chernobyl. Infatti, perché è inquietantemente simile a quello che è accaduto nel triste aprile, 26 aprile, no, 86, comunque nei giorni dopo, comunque, che dice che in 72 ore praticamente. In 72 ore hanno visto un aumento di queste particelle. Ovviamente nessuno sa niente, quindi ragazzi. Beh, certo, meglio non fare domande. Vabbè, tanto che dobbiamo dire, lì sono probabilmente i classici esperimentini. Sicuramente sono prodotti di una fissione nucleare, come si chiama, molto probabilmente di provenienza di civile, quindi di strutture civili, quindi. Quindi qualcuno ci ha avuto una perditina a casa si è fatto un reattorino che ha avuto, vabbè, non succede spesso. E gli isotopi sono il CS-134, il CS-137 e il RU-103 associato con un missile nucleare. Va bene, tutto sempre molto bello. Invece, ragazzi, avete visto cosa ha combinato Sacha Baron Cohen? Ha fatto il suo ultimo exploit. Vi metto un video nella chat della diretta. Perché praticamente si è finto estremista di destra in America. Ovviamente gli sono andati appresso come fosse vero. Ecco, quindi guardate il contributo video se avete modo. L'ho messo in chat perché è qualche cosa che io in questo momento non lo posso vedere, che sennò mi si impala la finestra. No, va bene, però anche dopo in separata sede, insomma, perché merita di essere visto e ricordato questa ennesima piccola perla del March for Our Rights numero 3 di quello che è, ricordiamoci, l'autore di capolavori del cinema trash come Il Dittatore, nonché Boris, solo che non è in the house. Esatto, solo che poi quando dico Boris Bruno non Boris, esatto, quando dico Bruno, esatto, lui a cascia. Detto il questo, ballo del membro, ragazzi, il ballo ragazzi, tra l'altro di lui recuperate, è bellissimo un'intervista che fece al linguista, non so, anche politologo Noam Chomsky, ma su 3 minuti, in cui lui fa delle domande assurde. Noam Chomsky che non so se fa sul serio, se dice stronzate, ma ragazzi, è troppo bello, cioè, uno che è praticamente uno dei più grandi pensatori attualmente ancora in vita, anche se gli rimangono secondo me 2 sciampi di vita. È lui che faceva, come si chiama, Ali G, che faceva domande stupide sul bilinguismo. È bellissimo, è un'intervista imperdibile, andatevela a cercare. Benissimo. E niente, quindi io nel frattempo sto cercando di reperire qualche altra notiziola sgarzolina, come dicono Striscia Notizia, sui media nazionali, però sì, ma io direi che possiamo anche andare a quello questa settimana. No, ridiamo un'ultima volta di Trump, del suo Kung Flu, ragazzi, perché ce lo siamo dimenticati in tutto questo, perché cioè, il che? Kung Flu, cioè Kung Flu, non la sai la cosa? Battuta di Trump. Sì, non che cazzo vuol dire Covid-19? Che è sto cazzo di 19? Ma che nome di merda? Ma che vuol dire Covid-19? Visto che viene dalla Cina, lo chiamiamo Kung Flu. Ma stai di sul serio? Certo, ma ancora ti meraviglia, ancora puoi pensare che da una mente fina come quella di Trump non esca una cosa del genere? No, vabbè, però cioè, sai, cioè, sempre dico, vabbè. No. No. No, c'è i suoi video. No, ci credo. Sono le prove. Non ho bisogno dei video, ci credo. Però pizzi. A meno che non fosse un rendering della PS5, però era lui. Non credo. Oddio, non lo so. Pizzi, invece io ti consiglio un parrucchiere. A me? Io non ce l'ho i capelli. Ma secondo me ti rifà. C'è Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, che praticamente sì, è considerato Federico Fashion Style. Fashion Style anche un po', sì, un pochino sì, è considerato il parrucchiere delle dive. Questo già ti fa pensare, sì, quanto può però farti crescere i capelli delle dive, delle dive, però allo studio a Nettuno, anzi, dov'è che ce l'ha? Non vabbè, lo so, questo, cara, questo non ce l'ha Nettuno. Quando, però non è gay, eh? Sposato con bambini, però non è gay. Vabbè, perché cioè, non era tema del, diciamo, non era questo il punto. Il Busilis, quindi non c'era neanche no, necessità di dirlo. Fa finta di essere gay. Cioè, perché no, fa parte, c'è parte del personaggio, secondo me. Secondo me c'è un personaggio dietro che ha costruito e che non vuole perdere, insomma. Comunque, che è successo? Sembrerebbe, perché poi dopo lui ha smentito categoricamente, che siano dovuti arrivare a chiamare le forze dell'ordine, perché dopo che è stato fatto praticamente il servizio completo a una sua cliente, com'è il servizio completo alla cliente? Guardi. Non lo so, non si sa, cioè, ragazzi, non si sa perché non è specificato che tipo di servizio doveva essere fatto. Comunque probabilmente taglio, acconciatura, colore e chissà quale altro, forse happy ending, non lo sappiamo. Comunque si è vista rifilare un conto di 600 euro. Tu fai quello delle dive, però insomma ha detto: guarda, io non era questa la cifra pattuita, ti voglio pagare 300 euro. E quindi praticamente alla fine sono dovute arrivare le forze, sono andate a chiamare i carabinieri. Però lui smentisce, le mani erano meglio. Lui smentisce, ma non è la prima volta che succede questa volta. E sembra, ho letto notizie di un'altra cosa simile che è successa, penso venerdì, in cui però il conto era di 5.000 euro. Ma insomma, qui, no, aspetta, prima cosa che devo capire, ma questo è veramente il parrucchiere delle dive, o è semplicemente uno che racconta sta fabbona? No, è conosciuto nell'ambiente, accettabile al mondo, insomma. No, è conosciuto nell'ambiente, assolutamente, diciamo, è vera questa sua fama. Poi da qui a stabilire che un taglio di capelli suo valga quelle cifre, io mi asterrei, ecco, perché io dei capelli, ma che ne so. Infatti 5.000 euro da Federico Fashion Style, e arriva pure la polizia. Ma infatti non è la prima volta, questa è ad Anzio, non è la prima volta che succede, insomma. Quindi niente, arrivano sti conti, insomma. Io dico: che cazzo te devi fare un capoccio per 5.000 euro, ma ti devono riattaccare uno per uno, cioè. Io non lo so, ma pure 600 euro, soprattutto oltre a quello c'è anche il discorso che, cioè, lì entra voglia all'happy ending, cioè, tutta la notte. 5.000 euro, ma pure 600 euro per i capelli, cioè, che poi le donne veramente... Io se ci avessi 5.000 euro da buttare proprio, cioè, nel senso, fossi una persona così... Ma anche 600 euro pizzi, cioè... Cioè, mi comprerei un videoproiettore. Un altro, così. No, vabbè, ma 600 euro, perché le donne hanno dei problemi, secondo me, comunque, per queste cose. Cioè, scarpe, borse e capelli, cioè, perdono quel po' di logica che hanno completamente, e va bene, però 600 euro, ragazzi, ma che cazzo. Non fa queste affermazioni maschiliste, non è in senso assoluto tutte le donne. Conosco uomini che fanno de peggio, cioè, nel senso... Sì, ma statisticamente possiamo parlare delle donne che fanno cose del genere. Gli uomini, guarda, c'era una che lavora con me, che quindi... Vabbè, ma lei perché è una di quelle particolarmente predisposte? Esatto, sì, particolarmente predisposte. Ma le donne sono un po' tutte così, c'hanno quel è un po' un punto debole, capito? È un po' una, diciamo, la scavicchiata nella corazza, il buco nella corazza, che tu ci infili una cosa e si spacca tutto, cioè proprio il formaggio davanti al sorcio, non lo so, vabbè. Il formaggio davanti al sorcio, interessante questa affermazione. Oh, ragazzi, a proposito di cose interessanti su Trump, Peppe Rizzard ci mette l'accento su una notiziola prelevata da TechCrunch, che io vi chiederei di leggere al posto mio, perché il mio livello di blocco dei cookie è tale per cui non potrò mai accedere a TechCrunch. Quindi se poteste leggerlo voi, ho visto l'anteprima sullo snippet e diventa piuttosto interessante. Sembrerebbe che Trump sia stato sospeso da Twitch, e non so da cos'altro. non Twitch, Twitch. Se lo poteste leggere, perché io ho troppi blocchi sulla mia rete di casa per riuscire. È ora che li levi, è ora che Twitch. Allora, così ovviamente c'è Twitch Trump. Vediamo che cosa succede se io scrivo Twitch Trump. Ma guarda, c'è il link in chat. No, non c'ho assolutamente il link. Non c'è nessun Twitch link. Donald Trump bannato per incitamento all'odio. Tom Sardwer, forse Tom Sardwer. Sì, dovrebbe lo dice bastare. Anche Avery High. Quindi. Ma poi sei incredibile, cioè sei il presidente degli Stati Uniti. Ma lui non è presidente della Stati Uniti, lui è un bambino che gioca a fare il presidente degli Stati Uniti. Sì, cioè, io continuo a dire, ragazzi, lo diciamo da 2 anni che facciamo le live. Per me ci sono dei problemi di tipo geriatrico, al di là di tutto il resto dell'egocentrismo, dell'atteggiamento arrogante, del suo essere antisemita. Peggiora, però c'è del geriatrico lì. Ma di fondo c'è già un personaggio che sicuramente col tempo, coi malanni, con la vecchiaia, con quello che te pare, peggiora e basta. Cioè non esatto, esatto. Ma cioè, la base di partenza già era bella compromessa di suo. Sì, sicuramente. Io penso alla nazione come gli Stati Uniti, no? Non, che comunque hanno il presidenzialismo, che è una sorta di, diciamo, governo diretto esecutivo, anche se poi non è poi così come possa sembrare che il presidente mi decide e fa, insomma. Però insomma, diciamo che ci stanno a un sistema abbastanza, insomma, di quel tipo. Però il Senato americano non ha mai lavorato così tanto come negli ultimi 4 anni, eh? Questo sì. Cioè, nel senso, non c'è un governo come quello americano, così strutturato, così messo in autosicurezza. Cioè, non può pensare veramente di campare in queste condizioni con un presidente di quel tipo, tutto il rischio che è un personaggio divisivo, assolutamente divisivo. È una cosa che non dovrebbe essere, perché comunque un presidente dovrebbe rispecchiare un po' tutti i suoi, diciamo, concittadini, tutti i votanti, anche quelli che non ti hanno votato. Questo invece è proprio completamente divisivo, non gliene frega un cazzo, c'ha ragione lui e basta. Comunque, a Twitch lo ha sospeso. E mi sembra un'ottima cosa. Mentre Reddit ha proprio bannato alcuni suoi subreddit che erano abbastanza popolari. Tra l'altro, ricordiamoci, per fare un'analogia che spiega anche un pochino il contesto, Twitch è di Amazon. Amazon ha un attimino il dente avvelenato con Trump, perché qualche tempo fa Trump ha messo i bastoni tra le ruote ad Amazon stessa. Praticamente cosa ha fatto? Ha tramite una modifica ad una legge o qualcosa, qualche emendamento tirato fuori a un certo punto, ha fatto sì che una gara d'appalto enorme per miliardi di dollari vinta da Amazon venisse in realtà poi successivamente assegnata a Microsoft, perché Amazon ce l'ha sempre avuto, perché Trump ce l'ha sempre avuta con Jeff Bezos, di conseguenza gli ha proprio messo i bastoni tra le ruote, lo ha boicottato palesemente, e credo che da lì Amazon, appena può, gli manderà gratis da Amazon Pantry un bel biscottino avvelenato, insomma, quantomeno, ecco. Che stavate a parlare? Ho perso, no, per un buon 5 minuti. È sempre del nostro caro amico Trump, che è stato bannato ancora da Twitch. Perché è stato bannato da Twitch? Incitamento all'odio. Incitamento all'odio, ok, perfetto. Tra l'altro, Peppe dice Peppe Rizzard dice in chat che Trump è il Salvini americano, ma con pieni poteri, pensa che culo che abbiamo. In realtà è un po' il contrario, nel senso che è Salvini che punterebbe ad essere il Trump italiano, ma in realtà il Trump italiano per definizione è Berlusconi, anzi ce l'abbiamo avuto prima. La cosa è che fortunatamente a Berlusconi bastava un po' di fica per concentrarsi solo su quello e non fare poi troppi danni. Trump invece sembra completamente... è ancora più pieno di sé, è ancora più pericoloso, perché poi ovviamente gli americani sono armati di strumenti che gli italiani non hanno, per fortuna, dico. Beh sì, soprattutto in questo periodo di interruzione della denuclearizzazione, in questa fase storica di grandi separatismi, diciamo di anche di egoismi nazionali, no? Cioè, c'è questo revival, insomma, della scarsa cooperazione, quindi insomma, diciamo, un bel momento storico questo, bisogna riconoscerlo. Revival, un par de revival, cioè secondo me è sempre stata una cosa che è stata abbastanza sotterranea, abbastanza i finti sorrisini, sì, cooperiamo, che bello, però in realtà, cioè, non si vedeva l'ora di fare sto revival che dici tu, che secondo me revival non è, però boh, mia opinione. A proposito di cose che succedono in maniera un po' sotterranea, ora io lo accenno, ma in realtà poi ne vorrei parlare con un attimino più di calma. Sarebbe anche carino farci per assurdo una puntata di morti di bestemmie, perché a me fa veramente gelare il sangue, venire il sangue al cervello. Perché per la seconda, se non terza volta nella storia, il ministro Franceschini è riuscito a far approvare un ennesimo ritocco di quello che era il meccanismo della copia privata. Sapete la storia del balzello che noi paghiamo alla SIAE quando compriamo un dispositivo di massa vuoto, che è chiamato per la copia privata. Non solo i dispositivi di massa. Peccato poi che questo compenso per copia privata non ci autorizzi a fare una copia privata, perché quello è il paradosso dei paradossi. Io non posso copiarmi il contenuto di un supporto audiovisivo originale su uno non originale, nemmeno se ho pagato la tassa sulla copia privata. Quindi questo, vabbè, la cosa grave è che già era un balzello senza nessun significato giustificabile prima, ma adesso sono stati addirittura aumentati, è uscita il nuovo tariffario e ci sono delle tariffe mostruose. Tanto per dirvene una, vediamo, aspetta, la più eclatante. Vabbè, su un personal computer, a prescindere dalla grandezza del disco o altre cose, il compenso sul fisso per la copia privata quando compri un personal computer di 5,20 euro, tu dici vabbè, tutto sommato è una tassa minima. Poi vai a vedere che però quando compri le singole periferiche le cose diventano assurde, per esempio gli hard disk. Se comprate un hard disk fino a 160 GB, che è un taglio ormai obsoleto, non ci sono tasse. Da 160 GB a salire il compenso parte da un centesimo a gigabyte, per arrivare oltre 2 terabyte a 0,008 centesimi a gigabyte. Col risultato materiale che se vai a comprare oggi un hard disk da 2 terabyte, che è un taglio assolutamente ragionevole, lo paghi 18 euro in più solo per il compenso sulla copia privata. Praticamente una doppia IVA. Bisogna. Non ho mai capito una cosa, a livello di altri stati, cioè gli equivalenti di altri paesi europei, dici? Sì, sì, in altri paesi europei gli equivalenti della come si comportano. Scusami se non mi mancano le parole. Guarda, francamente non te lo so dire di preciso, sarebbe carino approfondire l'argomento. Anche qua, magari se c'era il nostro Puccio ne sapeva qualcosa in più. Però è veramente ne sa qualcosa anche possiamo una volta di queste pensare, insomma, di parlarne in un contesto di quelli seri di Runtime, perché secondo me veramente questa è una di quelle cose vergognose. E poi non voglio fare il nerd, però è veramente veramente assurda una cosa del genere. Quindi boh, lasciamocela per una riflessione futura, ma domandiamoci come faccia la lobby della CIA e il lobbismo intorno alla CIA a essere francamente più potente di tanti altri. Non lo scalfisci, le guerre fanno morte, distruzione e macerie, ma la CIA resta sempre in piedi, ecco. Vabbè, perché sono quegli enti che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione che queste agenzie pubbliche sono state costruite in Italia, ce ne sono tante, alla fine davano da magnà anche lì c'è sempre il solito, davano da magnà e danno da magnà a decine e decine, se non centinaia di persone, no? Poi hanno anche una funzione, che è una funzione tecnica, che però questa funzione tecnica secondo me in Italia è stata, diciamo, molto sovrastrutturata, sovradimensionata, insomma. E infatti sì, sarebbe carino fare una bella puntata, perché noi una volta ne facemmo anche con un avvocato molti molti anni fa una bella puntata di questo tipo qui. Però c'è anche da dire che evidentemente fa oramai parte troppo, talmente tanto del sistema. Sì, però Simone, io sono d'accordo quando tu dici l'Italia è piena di apparati pseudo pubblici inutili che servono tra virgolette a giustificare stipendi, meccanismi di questo tipo. Però tutti gli altri enti entucci ed entini si autoalimentano senza come dire, chiedere quello che spesso viene definito un pizzo legalizzato all'utente, e soprattutto non di questa entità, e a maggior ragione senza darmi niente in cambio. Perché vabbè, se tu mi dicessi la RAI, tu paghi sulla bolletta, paghi il fatto che devi assolutamente pagare. Non è più neanche una tassa per la Rai, una sola, ormai è una tassa di possesso sul televisore. Un apparecchio audiovisivo e c'è una bolletta soprattutto intestata, paghi, basta, prescindere. Sì, vabbè, però questa però, è una data, però scusami un attimo, perché diciamo che più logica chiamarla la canone Rai. Ragazzi, però cerco di evidenziare la differenza tra le due cose, se mi permettete. Che la Rai ci piaccia o no, la Rai è quel servizio che ci viene dato in cambio di un canone. Se io compro un disc da 2 tera e lo pago 18 euro in più, lo faccio in funzione di quale vantaggio, di quale contropartita, di quale motivazione? Il compenso per la copia privata. Ok, allora che significa? Che se lo riempio di MP3, gli MP3 che sono lì dentro diventano leciti. La Rai non prende tutti i soldi, cioè il contributo che prende la Rai è una parte del canone, il resto va allo Stato per i cazzi suoi. Quindi neanche per la Rai vale più questa cosa. Va bene, però continua a essere diverso, perché questi soldi che la SIAE riceve per il famoso compenso di copia privata, alla SIAE vanno e poi vengono ripartiti tra gli autori, gli editori e tutto il meccanismo. Però ripeto, in cambio di che cosa? Che forse il problema di fondo, che forse la ripartizione è la parte più scandalosa della SIAE, non è tanto il fatto che la SIAE riprenda soldi, perché il meccanismo SIAE, mo non si chiama SIAE o roba del genere, comunque la gestione della tutela dei diritti d'autore esiste in tutto il mondo, ma per carità, si sono inventati noi, no? Il problema nessuno è che dice poi, niente, comunque in altre parti del mondo c'è una sorta di equa ripartizione, quindi invece c'è un ente gigantesco che per lo più è una scatola vuota che viene commissariato ogni 2 per 3. Però quello è un altro problema niente. Ancora Simone, fammi finire. Pur non può niente finire. Perché non è che tu c'hai un sistema di produzione dietro che c'ha un costo, quindi non c'è un costo effettivo, però viene comunque commissariata per deficit di bilancio, roba del genere, che ripartisce sti soldi a cazzo dei cani, a seconda ovviamente l'importanza di una sorta di graduatoria che loro c'hanno all'interno, che come dice pure l'amico mio musicista, io sì, ringrazio la SIAE, perché comunque se io ho degli incassi e grazie alla SIAE, però è vero pure che magari in un altro paese quegli incassi sarebbero stati molto più equamente ridistribuiti rispetto a quello che io faccio realmente, non rispetto a una graduatoria prestabilita dalla SIAE, che okay, questo è il problema vero. Ma cioè, questo è un altro meccanismo che riguarda sempre la SIAE, però riguarda un altro tema, nel senso che in Italia la SIAE esiste come esistono altre entità di tutela dei diritti degli autori e degli editori. L'Unione Europea ha stabilito che la SIAE non può operare in regime di monopolio e quindi è nata Soundreef, eccetera eccetera, però quello è un aspetto, quello è un aspetto che poi tutti quanti abbiamo da ridire, nel fatto che se io ho un piccolo locale e voglio mettere musica dal vivo devo dare un sacco di soldi, che le tariffe sono assolutamente non commisurate a quello che poi l'esercizio pubblico può ricavare, eccetera eccetera, però quello è un aspetto. Quindi abbiamo un altro che è collaterale, cioè che sono obbligato a pagare una tassa quando compro un apparecchio elettronico, una memoria di massa elettronica, che è stato chiamato in un modo emblematico tassa compenso per la copia privata. La copia privata di che cosa? Me lo devi spiegare, me lo devi permettere. Se mi dici io ti chiedo 20 euro su un hard disk da 2 tera, però poi quello che metti dentro quell'hard disk automaticamente è sanato, quindi è tra virgolette oggetto di una sanatoria, forse ci avrebbe anche un senso. E soprattutto quello, cioè cosa? Una copia privata significa che se io ho l'originale di Monkey Island ho il diritto, anzi viene anche suggerito, di avere a parte una copia. Simone, questa cosa è stata smentita negli anni, deve essere licenziata in qualche maniera, no? Questa cosa è stata smentita, la famosa copia di backup è stata smentita negli anni, perché era qualche cosa che veniva permesso all'epoca in cui i supporti di memorizzazione erano più fallaci di adesso, quindi all'epoca del dischetto. Successivamente, con tutti i meccanismi di digital rights management, protezione eccetera, questa cosa è venuta meno. Io oggi, anche a me se non concesso che la SIAE mi autorizzasse a fare la copia privata di backup di un contenuto da un DVD o a un Blu-ray di mia proprietà, la copia di mia proprietà su un hard disk di mia proprietà come copia di riserva, comunque non lo potrei fare, perché le protezioni che ci sono sull'originale non me lo permettono. Quindi in funzione di questa cosa tu mi stai chiedendo dei soldi per una funzione che io poi non posso usufruire. Che schifo. che schifo. Va Vabbè, comunque, chiudiamo, basta questa cosa con una siamo diventati fin troppo seri dall'OMS. Chiudiamo questa cosa dove il direttore generale Ghebreyesus, per gli amici Mario, esatto, mi dispiace dirlo, ma il peggio deve ancora arrivare. Sì, ma eravamo abbastanza pronti. Basta, chiudiamo questa bella notizia. No, anche perché, ragazzi, ricordiamoci che in vacanza adesso, in Europa, tutto sommato, stiamo tenendo botta perché siamo stati tra i primi ad avere l'ondata. Ma la cosa inquietante è che in tutta l'America, visto come l'America, si sta comportando in tante regioni d'Italia, prepariamoci. Perché... Vabbè, prepariamoci del brutto, ne so qualcosa. Hare Krishna, Hare Cristo. Esatto. L'abbiamo raccontato Hare Cristo, anche la notte. Hare Krishna, esatto. Poi mi spiegherete perché io di notte tendo a dormire, quindi magari non vi ho ascoltato. Però, ragazzi, io continuo a dire: ok, sì, è vero, diciamo che si sono allentate le maglie dei controlli, eccetera. Però le cose non stanno andando in maniera disastrosa, anche se poi negli ultimi giorni si fanno meno tamponi, eccetera. Il problema è in tutti gli altri continenti, Stati Uniti, Sud America, Russia, eccetera, eccetera, dove sostanzialmente nessuno si sta curando di mettere un freno all'epidemia. E lì il vero problema. Noi in Europa, tutto sommato, ci questo stiamo comportando bene. Perché quando lì saranno morti tutti quelli che dovevano morire, saranno immuni e noi saremo schiacciati perché non saremo pronti. Quindi verremo uccisi noi e saremo conquistati dal resto dal Brasile, dalla Russia. Questi ci conquistano. Cammineranno sulle nostre macerie. Non lo so. Io più fresco un pratico schemino in cui fa vedere che gli USA hanno cercato di abbassare e poi sono risaliti di nuovo, mentre gli altri paesi bene o male stanno gestendo. Però aspetta, adesso guardando il grafico, ma manca il Sud America, perché abbiamo gli Stati Uniti e manca anche la Russia, quindi insomma non ce l'hanno la malattia, loro muoiono di freddo. In Russia probabilmente no, anche se, oddio, di freddo non lo so, Marco, perché non so se hai sentito le notizie di questi giorni, in Siberia ci sono 35 gradi sopra lo zero. 38 gradi. 38. Insomma, è successo 100 anni fa, con 35 gradi è successo, poi sì, perché ogni 100 anni devono spostare i gulag, non hanno più senso di esistere là, eh. Dobbiamo fare il gulash? Io ci sto con tanta cipolla, però. Buono, sì. Buono. Vabbè, io intanto so giocare a Original Sin, quindi... Vabbè, ragazzi, allora c'è dai. Ancora casino che ti sgamano mentre fai stealth. No, ho deciso che basta, fa sempre il personaggio eroico buono. Quindi questo è o fai come dico io, oppure il tuo personaggio, che ricordiamo agli astanti, si chiama Paul. Non si può dire, non si chiama Paul stavolta. È solo il cognome. Una variante, si chiama Kama Don, però poi. E quindi quindi va bene. È una variante. Vabbè, ragazzi, che dire? A sto punto cominciamo a tirare le somme, dai, perché se siamo in mood giochereccio, quindi andiamo tutti quanti a giocare, vero? Parliamo di cazzi nostri, andiamo a giocare. Ci sta. E allora cominciamo a venire a noi. Intanto salutiamo tutti gli amici in chat che ci hanno fatto compagnia durante questa lunga diretta di lunedì con OGM. Quindi ciao Peppe Rizzard. In realtà saluto anche chi si era collegato in prediretta, Stefano e Zio Mischi, che probabilmente ci recupereranno in differita, così come farà anche il nostro cuciniere dello spazio profondo, che per motivi di opportunità ha preferito non ascoltare la diretta al lavoro questa sera, come dargli torto. Salutiamo invece i commensali, anche se non si mangia nulla, dalla ridente Emilia il nostro preziosissimo Francesco Frontale. E di ritorno dalle Marche, dove io vi dico questo aneddoto: ero in giro per Pesaro, a un certo punto vedo sto tizio con un cartello che diceva lo smart work chi fa schifo, lo smart work chi fa... Era Walter Vannini. Ci siamo molto bene. E vi saluta calorosamente. No, senti, ma il priore invece l'hai visto? L'hai intravisto? Il priore comunque era in ritiro, era anche lui in ancora in lockdown, perché lui si è lockato down bene con un bel po' di ballerine, di minorenni, di queste cose qua, quindi è ancora in festina, ancora non ha finito il golden shower, quindi bene, molto molto bene. dalla ridente Monterotondo fatemi salutare ancora quindi Marco Gualdi. Ciao, vi saluto, buone vacanze così, a prescindere, buone vacanze. Non abbiamo stabilito niente ancora. Però meglio farle subito le buone vacanze. Ma Marco, ma dove vuoi andare in vacanza? Che devi vendere case tutta estate? Sono loro che devono andare in vacanza, noi stiamo qua a fare la schiuma. Buone vacanze a voi, mica a noi. E buona camicia a tutti e anche a Simone Pizzi. Ciao cari, vi voglio bene, mi raccomando, buona vacanza. Buone vacanze, buone vacanze. Buone vacanze. E alla prossima anche da parte mia, ragazzi, buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.